No era importante se avete vinto o no. La cosa importante è che è stato 5 minuti di gara, ma per loro era stata una vita. Epopeia. 3.000 anni fa un gladiatore compete con altre 5 le sue carrozze, con i cavalli frizzanti, frizzanti nel ritmo della luce. Hanno bruciato i loro caschi, ma ancora continuavano 1.000 legue ogni secondo. Ma si trovavano a competere non solo tra di loro, c'era un gladiatore contro tutti quanti che avevano esistito della creazione. Lei presenta le sue armi invisibili, ma si sentivano e erano mortali. Gli gladiatori non capiscono, forse in anticipo, a suoi tempi, senza sapere. Non hanno capito il motivo per cui i loro cavalli brillavano come lo hanno fatto. Il Colosseo era pieno, ma gli spettatori hanno visto solo i raggi di luce e i gladiatori non li vide, molto meno ascolti. Gli gladiatori trarre le spade insieme, cercando di respingere il gladiatore potente e invisibile, come i cavalli avevano la forza di continuare. Gli spettatori parlavano tra lei. Avevo trascorso un minuto e colpisse gli occhi per la paura di essere stati assecati. Dopo 5 minuti gli cavalli erano stanchi. Po' a po' le figure del carri e del cavalli appaiano. I gladiatori e i cavalli erano sul punto di perdere dell'animo e della vita. Come ho detto, non importa se vincono o no. La cosa importante è che è stato 5 minuti di gara, ma per loro era stata una vita. Cesare.